E allora, come ogni lunedì, anche questo lunedì caldo, lunedì 17 giugno, va a cominciare Impatto, voci contro le nocività. Scaletta della puntata di oggi, verterà quasi tutta, come ormai da parecchio tempo, sul tema rifiuti, perché insomma arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la vertenza contro l'inceneritore di Albano. Proseguiremo con le news per quello che riguarda il post Malagrotta e la fine della tornata elettorale, che adesso insomma vede uno schieramento amministrativo un po' più chiaro, e continueremo con notizie sparse su proprio segnalazioni e denunce di insomma situazioni molto strane che un po' su tutto il territorio vengono segnalate, anche alla luce del dossier annuale che viene redatto dal Ministero degli Interni proprio sui crimini ambientali. E quindi insomma a risentirci tra qualche minuto. Feel the funk, y'all. Let it flow. E a questa già ricca scaletta aggiungiamo che tra una mezz'oretta tenteremo di raggiungere una compagna di Napoli per quel che riguarda le future evoluzioni delle lotte contro gli inceneritori di Napoli Est e Salerno, alla luce delle dichiarazioni del nuovo ministro dell'ambiente, che già molti comitati soprannominano Orlando il Brucioso. E allora in onda sempre da Radio Onda Rossa 87.9, come avevamo annunciato dalla scaletta, arrivano insomma aggiornamenti per quello che riguarda la vertenza contro il progetto di inceneritore ad Albano. Abbiamo raccontato della situazione nelle settimane passate, nei mesi passati, e insomma ci siamo soffermati anche sulla vicenda del gestore elettrico e sui soldini che le aziende, il consorzio di aziende pretendeva di incassare per costruire questa opera, e insomma alla fine insomma di una lunga battaglia per recuperare anche la documentazione si sono capite una serie di vicende abbastanza oscure, che però insomma vedono adesso come adesso l'entrata in scena, in gioco pesante del nuovo governo, come se non bastasse quello che ha combinato quello vecchio. Abbiamo un collegamento, Daniele, per farci raccontare queste novità che sono emerse nel corso delle settimane, che insomma facevano ben sperare, fino a qualche giorno fa, ma invece insomma si è capito che i tentativi per incassare i soldi e cominciare a costruire, ecco, a avviare il cantiere sono molteplici e si stanno indirizzando invece proprio direttamente al governo. Senti Daniele, ci senti? Sì, sì, ciao Paolo. Ciao, allora insomma se ci puoi spiegare cosa è successo in queste settimane proprio in relazione al gestore elettrico e ai fondi pubblici che sono ad essi collegati. Sì, guarda, per fortuna intanto abbiamo parlato tante volte del gestore dei servizi energetici, del GSE, abbiamo parlato tante volte dei fondi pubblici per la costruzione e poi la gestione dell'inceneritorato urbano, quindi i CIP6 per la costruzione e i certificati verdi, poi i bonus sull'energia elettrica prodotta, e siamo riusciti finalmente dopo circa un anno e mezzo di attese e di battaglia ad avere questa convenzione preliminare COEMA, ovvero consorzio di Cerroni, Acea ed Ama, che vorrebbero appunto ancora oggi costruire l'inceneritore più grande d'Europa all'interno della discarica dei Castelli Romani, quindi la discarica di Roncigliano, e dall'altra appunto il gestore dei servizi energetici, che è l'ente pubblico che gestisce e distribuisce questi fondi. Ecco, la convenzione che disciplina il passaggio dei fondi per l'inceneritore d'Albano è rimasta segreta fino ad oggi, nonostante sia stata stipulata a giugno del 2009. Per farla uscire, appunto abbiamo portato avanti una battaglia da un anno e mezzo, ci siamo riusciti grazie all'aiuto di una deputata delle 5 Stelle, Federica Daga, ci ha dato una mano, insomma alla fine dopo due mesi di diritera i dirigenti del gestore del servizio elettrico hanno tirato fuori questi documenti. Abbiamo scoperto che sostanzialmente, a nostro avviso, insomma, il passaggio dei fondi sarebbe assolutamente, totalmente illegittimo, in violazione delle normative sia europee che nazionali. La cantierizzazione dell'inceneritore doveva partire entro il 31 dicembre 2008, la cantierizzazione non c'è mai stata. Il 13 agosto di quest'anno festeggeremo, se così si può dire, 4 anni di assoluta mancanza di qualsiasi attività di cantierizzazione, quindi la cantierizzazione non è che non è, cioè è iniziata e si è fermata, proprio non c'è mai stata, e quindi il passaggio dei fondi pubblici non dovrebbe esserci. Il COEMA ha preso subito le mosse alla possibilità, insomma, per noi di mettere a disposizione della comunità anche sulla stampa di questa convenzione, quindi l'abbiamo mandata pure alla stampa con un comunicato, è stato addirittura pubblicato il testo intero online di questa convenzione, e il COEMA quindi ha preso subito le contromosse alla nostra iniziativa e ha chiesto, è incredibile insomma a crederci, ma è proprio così, ha chiesto ai dirigenti del gestore del servizio energetico, quindi al GSE, di sostanzialmente annullare la vecchia convenzione e di stipularne un'altra nuova, e considerare questi anni, questi 4 anni trascorsi in vano, quindi dal 13 agosto del 2009 ad oggi, una causa di forza maggiore determinata appunto dall'ostilità delle popolazioni locali, dei movimenti, delle associazioni, dei comitati e delle amministrazioni di bacino, che appunto da diversi anni portano avanti, anche se con attitudini e modalità diverse, una battaglia comunque contro questo impianto, e quindi riconsiderare tutto questo periodo una causa di forza maggiore e sostanzialmente garantire ancora il passaggio di tutti i soldi pubblici per costruire l'impianto e successivamente per una sorta di bonus sulla gestione, quindi sull'energia elettrica che verrà prodotta. Senti Daniele, è grottesco insomma capire e venire a conoscenza del fatto che adesso è il consorzio COEMA che chiede l'annullamento di questa convenzione che insomma fino a qualche settimana fa sarebbe servita a fargli incassare miliardi, e invece adesso tutto a un tratto insomma questo contratto non è più valido e se ne sono accorti anche loro, e insomma la faccia tosta di tornare sotto alla carica proprio alla luce invece magari delle pesantissime irregolarità che hanno reso il contratto non valido, tornare alla carica per continuare insomma a prosciugare le nostre tasche per costruire questo impianto, cioè insomma una veramente una situazione grottesca, che fa capire pure l'arroganza di chi sta dietro questo consorzio che continua insomma vuole continuare a spadroneggiare in barba insomma anche a dati di fatto oggettivi che non gli permettono più di attingere a questi fondi, quindi è veramente veramente insomma incredibile sentire che insomma si cerchi ancora comunque di percorrere la strada per incassare i soliti CIP 6, i certificati verdi e mettere in ballo insomma di nuovo insomma il ministero proprio per questa operazione. Sì, diciamo che il ministero poi in realtà è stato tirato in ballo dai dirigenti del GSE che insomma testuali parole erano un po' stanchi, così ci è stato riferito di essere tirati per la giacchetta, hanno scritto direttamente al ministro Zanonato, che è il ministro in carica per del governo Letta, quindi per del Ministero per lo Sviluppo Economico, che appunto controlla questo ente pubblico, il gestore del servizio elettrico, e gli hanno scritto dicendo cosa dobbiamo fare, secondo noi i certificati verdi e i CIP 6 non gli spettano, ma l'ultima parola come diritto, come consuetudine spetta proprio al ministro, quindi nelle prossime settimane il ministro dovrà rispondere alla richiesta esplicita, quindi abbiamo proprio la lettera nero su bianco che i dirigenti del GSE gli hanno inviato, hanno detto che facciamo, rinnoviamo o annulliamo, e consideriamo quindi, cioè il rinnovamento comporterebbe appunto riconsiderare questi anni una causa di forza maggiore, anche se in realtà così non è, quindi ci stiamo attivando nelle prossime settimane, sicuramente abbiamo già chiesto un incontro col ministro Zanonato come comitato, con la sua dirigente che si occupa appunto della direzione per le energie rinnovabili, cercheremo di capire nel dettaglio appunto con un incontro diretto faccia a faccia quale iniziativa appunto il ministero vorrà prendere, e molto presto quindi avremo sostanzialmente un incontro, speriamo, e se non ci sarà un incontro comunque un sit-in sotto la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico, perché questa sarebbe appunto un'ennesima beffa, una vera e propria truffa ai danni non solo della salute ma anche delle tasche dei cittadini e delle cittadine che finanziano appunto col 7% della bolletta elettrica, quindi il CIP 6, e con i certificati verdi per le energie assimilate appunto con la truffa dell'energia elettrica prodotta dalla combustione dei rifiuti, finanziano appunto queste opere inutili, dannose, costose, quindi che gravano appunto come dei macigni sulle realtà appunto territoriali locali. Allora insomma ti ringrazio per averci insomma preannunciato le prossime iniziative, ma insomma torniamo anche alla questione anche sul territorio, perché insomma sì, il gruppo che fa capo all'inceneritore e che gestisce anche la locale discarica insomma si sta dando molto da fare in queste settimane proprio per racimolare quanti più soldi e quanta più liquidità possibile dalle casse dei comuni che sono debitori rispetto ad esso, e quindi insomma l'attività di rastrellamento e di rinegoziazione dei contratti per lo sversamento dei rifiuti è abbastanza frenetica, e insomma anche da questo punto di vista sono uscite fuori parecchie brutture e parecchie magagne proprio nel comune di Pomezia. Ci racconta che si è tentata un'operazione al limite insomma anche del ragionevole proprio a ridosso delle elezioni comunali in piena votazione, insomma c'è stato il tentativo di rinegoziazione da parte degli organi comunali anche se questi non erano ufficialmente nominati, e insomma se ci puoi spiegare che cosa sta succedendo anche da questo, perché insomma gli argomenti sono collegati, visto che la liquidità per questo il gruppo di aziende legate a Maglio Cerroni è fondamentale per portare avanti la propria politica industriale. Sì, guarda, è proprio così, insomma il sistema Cerroni, quello che almeno insomma la stampa spesso chiama così, fondato sul debito e appunto sul ricatto che consegue al debito, è in atto. I 10 comuni del bacino che sversano nella discarica dei Castelli Romani, chiamata di Roncigliano, hanno un debito che si attesta intorno ai 40 milioni di euro. La metà circa di questi 40 milioni, quindi circa 20 milioni di euro, sono appunto il debito che finora è stato accumulato soltanto dal comune di Pomezia, che il 9 e 10 giugno scorso è stato interessato dal voto insomma per le amministrazioni, per l'elezione insomma la nuova giunta comunale, per l'elezione del nuovo sindaco. Il 10, quindi ad urne aperte, il commissario prefettizio che era in carica da diversi mesi e il segretario comunale hanno preparato una delibera di indirizzo, la 121 del 2013, appunto del 10 giugno 2013, che prevede di utilizzare 56 milioni di euro che il Ministero del Tesoro ha sostanzialmente messo a disposizione come fonte creditizia per il Comune di Pomezia, la prima tranche di questa somma di 56 milioni di euro per saldare i circa 20-22 milioni di euro di debito, quindi fra situazione proprio debitoria e anche interessi accumulati dal Comune di Pomezia proprio nei confronti della società del gruppo Cerroni, che gestisce ed è proprietario quindi della discarica dei Castelli Romani. Il bello è che questa delibera di indirizzo per fortuna non è esecutiva, il sindaco ne è eletto, ecco, Fucci del 5 Stelle l'ha ribadito con un comunicato stampa, sta cercando di capire la situazione, quindi la delibera non è esecutiva e di indirizzo, ma la cosa bella insomma è che è stata preparata, è stata inserita tra le pratiche da mandare all'esecutorietà, ma poi non è stata addirittura firmata né dal commissario prefettizio né dal segretario comunale, quindi cioè veramente qualcosa che è dell'incredibile. Questa situazione paradossale, veramente fortemente paradossale, si somma con le notizie che circolano anche negli altri comuni dei Castelli, io penso al comune d'Albano, secondo alcuni ci sarebbe una situazione debitoria di più di 5 milioni di euro, quindi circa 5 milioni e mezzo di euro, ci sarebbe sempre una richiesta quindi inviata dall'amministrazione comunale Marini al Ministero del Tesoro per avere comunque un prestito per estinguere i debiti, perché Mario Cerroni in questa fase da diversi mesi ha una fonte sicura, è uno dei comuni, uno dei sindaci del bacino, insomma, ha assoldato, pare, diversi avvocati che tutto il giorno insomma se ne vanno in giro per le sedi dei 10 comuni dei Castelli Romani che sversano nella discarica di Roncigliano a battere cassa giorno per giorno, proprio perché insomma, come ricorderete, fra poche settimane i comuni dovranno votare il bilancio, almeno la prima parte, e ovviamente con una situazione debitoria così ampia gran parte dei comuni troverebbero una situazione di insolvenza tale da determinare anche un commissariamento, insomma è un default economico. Questa situazione chiaramente in un momento estremamente delicato dal punto di vista politico istituzionale, vi dicevo appunto del GSE, della nuova convenzione, il ministro Zanonato, paradossalmente in quello che è il momento più importante probabilmente la vertenza contro l'inceneritore, perché bloccare il passaggio dei fondi pubblici equivarrebbe insomma a mettere una pietra tombale sul progetto dell'inceneritore dei Castelli Romani, proprio in questo momento i comuni sono praticamente zittiti, hanno la mordacchia in bocca come i muli, non si sente più proferire la parola inceneritore, debito. Ecco, questa situazione relativa alla delibera fra l'altro di indirizzo al comune di Pomezia è uscita, si dice insomma molto probabilmente a seguito del cambio di gestione dell'amministrazione, ma tutti gli altri comuni stanno in una situazione pressoché analoga, nonostante il debito magari sia un po' inferiore, ma cioè qui ad Albano per una cifra di 1,5 milioni di euro l'anno scorso insomma anche l'amministrazione comunale dovette scendere ad una trattativa bieca con il gruppo Cerroni, insomma rimanendo per tanti mesi in una situazione di enorme difficoltà, quindi il sistema del debito e del ricatto, se così lo vogliamo chiamare, è ancora in atto, e quindi ancora una volta il comitato non vince, si trova sostanzialmente da solo contro delle truppe corazzate pesanti che sostanzialmente appunto cercano di strozzare qualsiasi tentativo di opposizione diciamo alla speculazione pesante, forte, costante sul nostro territorio. Senti Daniele, un'ultima cosa, insomma il fondo che il Ministero del Tesoro mette a disposizione ai comuni per sanare questi debiti, ma fanno capo a insomma al fondo che era stato creato per pagare le aziende strangolate dalla crisi i debiti con le pubbliche amministrazioni, insomma sono vari mesi che sulla stampa si parla di aziende strangolate dalla crisi per i debiti contratti con la pubblica amministrazione, e poi insomma magari si viene a scoprire che questi fondi servono per invece pagare i debiti di gruppi industriali che invece strangolano loro le aziende attraverso un ricatto connesso al grosso debito, e quindi insomma un'ulteriore beffa per insomma tutte le popolazioni che invece si sentono ripetere continuamente questa litania sul fatto che le aziende sono strozzate dai debiti perché le pubbliche amministrazioni non pagano, insomma, e quindi insomma un ulteriore elemento sicuramente di indignazione rispetto a tutta questa vicenda. Guarda, proprio così Paolo, cioè si tratta di un di una situazione proprio che corrisponde esattamente a quanto hai detto. Considera che Pomezia dovrebbe utilizzare la prima tranche di questi 56 milioni di euro che il Ministero del Tesoro gli mette a disposizione proprio per pagare in parte la Pontina Ambiente e in parte per conto del Comune. Gestisce appunto la raccolta della spazzatura indifferenziata, chiaramente di differenziata porta a porta nemmeno se ne parla, ma insomma è molto curioso poi che questa situazione debitoria, cioè io penso al comune d'Albano che ha accumulato un debito di 5 milioni e mezzo d'euro, che per un comune di 40.000 abitanti, credetemi, è veramente veramente tantissimo. È una situazione paradossale perché il comune d'Albano ad esempio riceve diciamo delle compensazioni economiche dagli altri 9 comuni dei Castelli che sversano nella propria discarica. Eppure il comune d'Albano, nonostante queste ingenti quantità di denaro che riceve ogni anno, ma veramente molto ingenti, ha il prezzo della spazzatura a tonnellata più alto di tutti gli altri comuni. Quindi i cittadini di Albano pagano la spazzatura circa 139 euro a tonnellata, che è il prezzo più alto, e in più il comune d'Albano riceve tutte queste, eppure si è creata una situazione debitoria di 5 milioni e mezzo di euro circa. E la cosa veramente ancora più paradossale è che nessuno di questi comuni pensa a mettere ad esempio una doppia pesa all'ingresso della discarica, che è quanto il comitato sta chiedendo veramente da anni. Quindi i rifiuti continuano ad entrare, li continua a pesare soltanto Maglio Cerroni, le fatture le fa sempre Maglio Cerroni, c'è un'indagine della procura per una sovraffatturazione pari a circa 10 milioni di euro, ma nessuno se ne preoccupa. Quindi insomma e nessuno chiede di compensare i debiti proprio attraverso insomma la truffa subita, che insomma è paradossale. Quindi il comune d'Albano c'ha la discarica, riceve tantissimi soldi, tant'è che anche Cerroni in una lettera al sindaco d'Albano, al sindaco Nicola Marini, gliel'ha proprio ricordato, ha detto: dall'attività che noi svolgiamo voi ricevete, e gli ha scritto una cifra astronomica, cioè parliamo di cifre veramente altissime. Quindi il comune d'Albano, nonostante questo, riceve tutti i soldi, fa pagare la spazzatura ai cittadini di più di tutti gli altri comuni del bacino, e questo è veramente un ulteriore paradosso. E adesso prende addirittura anche il comune d'Albano, nonostante la notizia non sia confermata, ma insomma le voci circolano e sono attendibili, ha la necessità appunto di prendere un prestito al Ministero del Tesoro per estinguere questo debito. E chiaramente il comune d'Albano, come tutti gli altri in questa fase, tace, proprio perché entro agosto dovrà chiudere, come l'anno scorso, fra mille trattative, un bilancio per evitare un default, per evitare un commissariamento. E comunque resta il fatto che diciamo combattere contro questa opera assolutamente inutile, dannosa e costosa, contro questo inceneritore che sarebbe il più grande d'Europa, ci stanno sempre e soltanto i cittadini. Quindi con i mezzi possibili cercheremo di arrivare anche sotto al Ministero per lo Sviluppo Economico, faremo sentire ancora una volta, come già è successo decine e decine di volte, la nostra voce forte, chiara, chiederemo assolutamente che la vecchia convenzione venga assolutamente e totalmente annullata, che non venga in nessun modo e nessun caso rinnovata una convenzione su presupposti evidentemente illegali. I fondi pubblici per questi impianti sono venuti meno da 4 anni su ordine appunto della Comunità Europea, quindi è necessario investire sulle fonti veramente pulite, energetiche, quindi il sole, il vento, l'aria, la terra, l'acqua, scusate, insomma speriamo bene. Sicuramente ci riaggiorneremo presto, dovremo andare sotto la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministro ci dovrà ricevere con le buone o con le cattive, ma abbiamo la necessità di bloccare il passaggio dei fondi pubblici, perché in realtà questi impianti a perdere sono delle forme di speculazione economica, punto e basta. Senza i fondi pubblici siamo sicuri che nessuno costruirà mai l'inceneritore dei Castelli Romani, né nessun altro inceneritore ovviamente. Allora grazie Daniele per questo insomma lungo intervento, e ci riaggiorniamo quando insomma le iniziative saranno in campo e ne parleremo ancora. Un grazie. Sì, grazie per l'ospitalità. Ciao. Ciao. Just might stop to check you out. Let me go on. my head stop to check to burn, and then when I'm a walking I stop, I stop, and I'm so strung out, and I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop, and I'm so strung out, I'm high as a kite, I just my hands up to check you out. Let me go on. E torniamo in diretta, Radio Onda Rossa, questa Impatto, voci contro le nocività, e andiamo a dare una serie di aggiornamenti per quel che riguarda il disastro dell'emergenza romana rifiuti. Sì, insomma, emergenza come la chiamano ormai da parecchio tempo, più di 2 anni, tutti i quotidiani, tutti i giornali, però logicamente si parla di una situazione ben definita. Il prossimo 30 giugno scade l'ennesima proroga di Malagrotta e a quanto pare, insomma, tutto il tessuto istituzionale, il nuovo presidente della regione e il nuovo sindaco di Roma sono in procinto di accordarsi insieme al Ministero dell'Ambiente per una nuova proroga della discarica, una proroga che durerà altri 3 o 4 mesi, e quindi insomma si continua in maniera assolutamente trasversale, cambiano le giunte ma la modalità di funzionamento è sempre la stessa, si prepara una nuova proroga, tutto coperto dalla favoletta che ormai nella discarica di Malagrotta si sversa solo rifiuto trattato e non più tal quale tritovagliato. E insomma questa è una bella favoletta che denunciamo da parecchio tempo, sia perché insomma i comitati di Malagrotta hanno insomma documentato il fatto di sversamenti di tal quale dentro gli invasi di della discarica di Malagrotta, sia perché le operazioni nei TMB del resto della provincia hanno un andamento che è alquanto discutibile e il trattamento che in esse viene messo in atto è quanto di più lontano da una separazione che insomma riduca l'impatto nocivo del rifiuto. Insomma si continua a fare tritovagliatura e quindi insomma questi fini politici che si sono insediati sulla poltrona del comune di Roma e della regione Lazio si coprono dietro la foglia di fico del trattamento di rifiuti a Malagrotta e del fatto che, visto che i rifiuti adesso sono tutti trattati, una nuova proroga si può fare un po' più a cuor leggero, però insomma aspettando anche di riconfermare Sottile come commissario, visto che il 7 luglio proprio la sua carica salterà e toccherà proprio al ministro Orlando, il nuovo ministro dell'ambiente, confermargli questa carica e magari assegnargli i poteri proprio in materia di proroghe. Sì, ministro Orlando che vedremo all'opera anche per quel che riguarda Napoli, quindi già sono decisioni quelle di passare per la via emergenziale, quindi per la nomina di commissari ad hoc per risolvere l'emergenza, che potrebbe passare sia per quel che riguarda Malagrotta, che ricordiamo continua ad essere utilizzata anche per i rifiuti non trattati, come abbiamo denunciato dalla scorsa trasmissione, sia per quel che riguarda la costruzione degli inceneritori di Napoli Est e Salerno, che il ministro afferma essere utili, come poi andremo a parlare nella corrispondenza che faremo con una compagna di Napoli. E quindi insomma il nuovo ministro dell'ambiente si dà un gran da fare proprio su questo argomento, che in realtà è un business molto redditizio per tutta una serie di gruppi industriali a lui probabilmente politicamente molto vicini, e quindi insomma si prepara per questa nuova tornata probabilmente pro inceneritori. Sì, non è neanche detto che poi si lasci tutta l'opera al ministro. Dalla Regione Lazio già erano arrivate dichiarazioni prima delle elezioni di Marino, che una volta eletto il nuovo sindaco del PD, avendo amministrazione comunale di Roma e regione dello stesso colore, si sarebbe poi potuto essere in grado di prendere decisioni anche impopolari sulla testa dei cittadini. Eh sì, quindi decisioni impopolari, e proprio il prossimo mercoledì 19 giugno, mercoledì questa settimana, Zingaretti e Marino si vedranno in un incontro, non sappiamo bene in quale località segreta, proprio per parlare del post Palagrotta e del sito che dovrebbe prendere il proprio posto. Si sa che serve una discarica temporanea, perché nel frattempo non si capisce bene cosa bisogna fare, probabilmente una discarica temporanea che poi diventerà la discarica sostitutiva. Il sito di Monti dell'Ortaccio non sembra più tanto nel toto discarica, più tanto così in pole position, ma è evidente che, insomma, delle voci giornalistiche, chi vive sui territori e vive il dramma della discarica sul proprio territorio, insomma, interessa poco. Quindi probabilmente il mese estivo, come sempre i mesi di luglio e agosto, sono quelli in cui si cerca di portare a termine le operazioni più bieghe, e proprio in questi mesi è probabile che bisogna tenere l'attenzione più alta rispetto alle operazioni che le istituzioni, in questo caso Regione, Comune e Ministero dell'Ambiente, hanno intenzione di imporci sui nostri territori. Adesso mettiamo una traccia musicale, e intanto cerchiamo di collegarci con i compagni che si trovano a Napoli, proprio per capire cosa sta succedendo e quali riflessi avranno le dichiarazioni del ministro Orlando rispetto alla situazione campana. torniamo in diretta. Questo è Impatto, la trasmissione che si occupa delle lotte contro le devastazioni ambientali, e andiamo appunto a fare un piccolo aggiornamento della situazione napoletana, sperando che la compagna che stiamo tentando di contattare risponda al telefono. Che cosa è successo? È successo che dopo l'uscita di alcuni decreti per quel che riguarda il commissariamento dell'emergenza rifiuti napoletana, sono uscite una serie di dichiarazioni molto allarmanti dell'attuale ministro dell'ambiente. Ministro dell'ambiente Orlando, che ricordiamo non aver fatto più o meno nulla, non essere più o meno segnalabile per alcunché dopo il diploma. È un esperto del settore. Sì, ha riscaldato molte sedie. Beh, ha prodotto tanta energia. Sì, sì, sì, tanta energia termica. Infatti, dopo il diploma, la maturità, non ci risulta che abbia fatto alcunché in alcun argomento particolare, però grazie a questo suo totale mancanza di caratteristiche è stato fatto ministro del Ministero dell'Ambiente, che è un ministero che sappiamo benissimo non aver autonomia decisionale al di fuori della linea dettata dall'ex ministro Clini, che comunque è rimasto come dirigente del ministero. Quindi questo nuovo personaggio inizia la sua opera e rilascia delle dichiarazioni piuttosto allarmanti. Allora gli viene chiesto: la nomina di due commissari, quindi stiamo leggendo dal Mattino di Napoli, la nomina di due commissari per gli impianti di Napoli e Salerno va in questa direzione? Parliamo appunto degli impianti ipotizzati di incenerimento di Napoli Est e Salerno. E la risposta è: sul dossier Campania ora ci sono degli elementi in più. Il primo, oggettivamente c'è stata una crescita della raccolta differenziata ed è anche possibile che l'impiantistica sia superiore alle esigenze attuali, ma d'altro canto non possiamo far passare l'idea che si rinuncia agli impianti. Quindi, cioè, queste sono dichiarazioni del ministro dell'ambiente? Sì, sì, della serie: ah boh, non ho idea se queste cose servono veramente, però hai visto mai che dai ragione ai comitati, alle lotte? Non è possibile. Beh, alla faccia insomma dell'opposizione ideologica ai progetti, oppure a favore dei progetti. Ste opere servivano o non servivano quando le hanno finanziate e le vogliono finanziare? Ma perché la TAV serviva o non serviva? Ma tu fai un'opposizione ideologica così, però. Vabbè, ma io l'opera te la devo costruire, perché te che fai l'opposizione ideologica non ti puoi permettere di opporti. Vabbè, se no poi faccio una brutta figura, faccio vedere che sono un po' molle con l'instabilità faccio vedere che sono un grande arraffone totalmente incapace di toccarsi la punta del naso, a meno che non ci siano bei soldoni che fiocchino nel qual e parecchi caso. Reparti di cenere e parecchi reparti di cenere davanti a me. Quindi torniamo a leggere appunto le dichiarazioni del ministro, e il ministro afferma che per questo da un lato faremo valere i progressi fatti, come l'aumento medio della raccolta differenziata a livello regionale, dall'altro siamo in grado di mettere in campo le procedure giuste per avviare gli inceneritori. Poi vedremo, strada facendo, se tutti gli inceneritori saranno necessari. L'unica strada altrimenti sono due: blocco dei finanziamenti e sanzioni che rischiano di essere pesantissime. Una bastonatura che non possiamo permetterci, quindi continua ad esserci lo spauracchio delle sanzioni dell'Unione Europea, proprio come per quel che riguarda il Lazio, che costringe tutti questi vari politicanti a tirar fuori dal cilindro impianti inutili, nocivi e guarda caso costruiti dagli amichetti loro. Beh, le dichiarazioni alquanto incredibili e sicuramente ideologiche del ministro Orlando non fanno ben sperare. Ideologia di che? Ideologia. Questo è materialismo, questi sono soldi, questo altro che ideologia. Effettivamente. E comunque, insomma, ci fanno preoccupare. Noi andiamo con un po' di musica e proviamo a metterci in contatto con Napoli per saperne di più. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, E purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto con la compagna di Napoli, che ci doveva un attimo dare degli approfondimenti per tutto quello che riguarda la situazione campana. Proviamo un attimo a riassumere. Noi siamo passati più o meno dalle cronache di tentativi di aperture di discariche, opposizioni molto forti delle popolazioni, anche con scontri per quel che riguarda Terzigno, abbiamo visto Quarto, Chiaiano, Marano, ma anche al centro di Napoli con l'accumulo dei roghi della Mondezza. E poi siamo passati, dopo l'elezione di De Magistris, tutto quanto sembra misticamente risolto. Già quando Silvio era giunto in campo, aveva mandato i militari, il nostro esercito, a difendere le strade di Napoli, poi in realtà ha messo l'esercito a difendere gran mucchi di Monnezza, per evitare appunto che la popolazione entrasse all'interno delle discariche. E adesso invece, per quel che riguarda la propaganda di Silvio, era tutto risolto già all'epoca, ma adesso anche con la propaganda di, tra virgolette, sinistra, insomma degli oppositori politici, che poi insomma i collaboratori politici più stretti per quel che riguarda questa nuova amministrazione, insomma anche per tutto questo nuovo governo. Sì, vabbè, diciamo che bipartisan c'è l'idea, sta passando l'idea che dopo l'elezione di De Magistris almeno tutto è più o meno calmo e risolto. In realtà non è proprio così, sì, non si aprono nuove discariche, però la soluzione trovata è caricare tutta la Mondezza di Napoli su delle navi con delle spese allucinanti e un traffico di mezzi nei porti incredibile, e questa Mondezza poi viene mandata in Olanda dove viene bruciata. E quindi insomma la situazione campana è sicuramente una di quelle più esplosive, perché vede oltre il connubio, oltre le aziende del settore, anche organizzazioni criminali dedite proprio a questo tipo di attività, e quindi insomma a breve purtroppo si riaccenderà questo fronte molto caldo, proprio perché sì, perché la soluzione delle navi ovviamente è un palliativo, non si è portata avanti la raccolta differenziata, si è trovato un buco di bilancio di 3 miliardi di euro nelle casse del Comune di Napoli, quindi più o meno non si è fatto nulla a parte caricare la Mondezza sulle navi, e quando l'Unione Europea si dichiarerà sfavorevole anche a questa soluzione probabilmente riesploderà tutto il problema, ma per ora si tira a campare e vediamo un po'. E allora un'altra pausa musicale e poi continuiamo con altre notizie. Cut you down. E allora, finita la canzone, continuiamo con alcune notizie sparse. E ci ha incuriosito una notizia che è ripresa da alcuni siti locali, precisamente al confine tra Lazio e Campania, nella piana del Garigliano, e proprio a ridosso dello svincolo dell'Appia, della superstrada Appia, che congiunge l'Appia alla centrale nucleare di Garigliano, è scoppiata una vicenda abbastanza singolare e inquietante. La procura di Santa Maria di Capovetere ha disposto il sequestro del nuovo svincolo, nuovo appena costruito svincolo, che congiunge appunto la superstrada Appia con la strada secondaria che collega la centrale nucleare. Questo nuovo svincolo è stato sequestrato ed è stato disposti i lavori di sbancamento per controllare se all'interno al di sotto del manto stradale siano stati interrati rifiuti pericolosi. Su tutti gli articoli si usa la parola pericolosi o nocivi, non si utilizza mai il termine rifiuti nucleari, ed è abbastanza inquietante il fatto proprio che questa cosa accada nelle immediate vicinanze di una centrale nucleare. Ed è anche abbastanza colpisce il fatto che la procura di Santa Maria de Capovetere abbia disposto il sequestro e questi lavori, che insomma sono lavori che comportano la distruzione del manto stradale e dell'opera, per controllare se ci siano dei rifiuti. E tutto è partito da voci e denunce anonime giunte in procura, che poi sono state riprese dai comitati, in particolare dal comitato antinucleare di Garigliano, che poi lo scorso 10 giugno ha anche organizzato una manifestazione proprio lì sul sito della rampa sequestrata. Ci fa pensare il fatto che rifiuti, non si sa se nucleari, speriamo proprio di no, vengano. Cos'è che ti mette a interrare sotto un manto stradale? In Francia è un'operazione abbastanza usuale e comune, sono stati costruiti stadi, parcheggi, strade sopra scorie, ma chilometri e chilometri di scorie nucleari. Ma probabilmente lì era tutto autorizzato, o comunque sia si è utilizzata questa tecnica in maniera diciamo serena. Sì, serena, perché le popolazioni non si mettono in testa che lo Stato possa fare qualcosa contro la loro sicurezza, però se vai sopra quei siti un contatore Geiger impazzisce di solito. E quindi insomma allarme per tutta la piana del appunto del Garigliano per questa situazione che vede appunto un intero svincolo stradale sotto sequestro e in fase di sbancamento, proprio per controllare e essere sicuri che non siano stati interrati rifiuti nucleari che comunque sia irraggerebbero la zona circostante comunque e produrrebbero un inquinamento veramente pericoloso. Poi come queste schifezze sono arrivate sotto il manto stradale di questo nuovissimo svincolo, insomma è quello che rimane un mistero, e vediamo insomma cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. pictures of Lily. Lily, oh Lily. Pictures of Lily. Torniamo in diretta. Adesso abbiamo finito gli argomenti della trasmissione di oggi e stiamo nello spazio appuntamenti. C'è un appuntamento che riguarda non tanto le questioni ambientali quanto appunto un discorso di, per quel che riguarda la ricerca e la ricerca di guerra. Quindi è un appuntamento che si tiene all'Università La Sapienza, in quanto grazie al lavorio del collettivo dell'Officina di Fisica è venuto fuori che la Sapienza ha proprio messo su un bel dipartimento di guerra cibernetica. Cioè, che cosa è successo? È successo che nel 2010, adattando lo statuto Frati, lo statuto dell'Università La Sapienza, alla riforma Gelmini, casualmente sono caduti anche gli articoli che vietavano la ricerca a scopi bellici, o almeno esplicitamente a scopi bellici, tra le mura della Sapienza. Questa cosa non è casuale e il motivo non si è fatto attendere. Perché insomma ricordiamo che la ricerca scientifica non è assolutamente imparziale e anzi è purtroppo il veicolo principale dello sviluppo delle e sostiene lo sfruttamento e la devastazione, lo sfruttamento dei lavoratori, delle popolazioni e le devastazioni ambientali. E purtroppo sempre di più in questo paese gli interessi delle grandi aziende, le grandi multinazionali influenzano le decisioni che gli enti pubblici devono intraprendere proprio su come i propri fondi devono essere indirizzati e su come insomma si deve crescere la futura classe dirigente e la futura classe scientifica. Sì, per quanto appunto la ricerca venga ammantata del mito del progresso della razza umana verso chissà quale vetta, appunto questo strano raggiungimento di uno stato di superuomo, in realtà la ricerca bisogna prendere atto che è un'attività umana svolta da esseri umani appunto ricercatori che devono mangiare. È una figura, quella del ricercatore, sempre più precarizzata, quindi sempre più ricattabile. Si passa da contratti di 6 mesi, 1 anno in giro per il mondo, sballottati da una parte all'altra, e succede anche molto di frequente che il ricercatore si tappi il naso e faccia finta di non vedere quello che è palese, cioè la partecipazione a programmi quadro militari come questo del Dipartimento CIS della Sapienza. Come spesso insomma gli stessi ricercatori si tappano il naso quando fanno perizie compiacenti per impianti inquinanti di qualunque tipo, da discariche a inceneritori a grandi poli siderurgici. Assolutamente sì, è molto più facile che un ricercatore si trovi a lavorare su nuovi filtri per inceneritori piuttosto che sulla ricerca di energie rinnovabili. Ricordiamo che la spesa della ricerca in campo energetico all'80% è tutta volta al nucleare, perché è là che si hanno le applicazioni più redditizie e soprattutto più applicabili alla guerra. Quindi andiamo un attimo a torniamo un attimo all'appuntamento della Sapienza. Abbiamo quindi questo dipartimento in guerra cibernetica che è stato costruito con finanziamenti della Maglan, che è un'azienda israeliana che si occupa appunto di guerra cibernetica, quindi di nuovi delle nuove frontiere della guerra, dal controllo dei droni al coordinamento delle truppe sul campo attraverso mezzi tecnologici sempre più avanzati, fino all'aggressione a nazioni estere come quella che peraltro Israele ha portato all'Iran con l'attacco detto Stuxnet, quindi Stux è bloccare, far crollare, e Net è rete, che è stato un attacco che è stato portato regalando pennettine USB a una serie di scienziati iraniani che le hanno inserite nei loro computer. E questo attacco, quindi in queste pennettine erano stati inseriti dei malware, quindi dei software che sono entrati all'interno di reti sempre più sensibili del governo iraniano, e questo ha portato addirittura al blocco di una centrale nucleare. I sistemi della centrale nucleare si sono bloccati portando gravi danni al reattore. Sono quindi partiti tutte le procedure di emergenza che hanno portato al blocco del reattore, ma quindi anche all'emissione nell'atmosfera. No, questo no, ma al danneggiamento sicuramente di molti sistemi, perché ovviamente un impianto nucleare, se lo blocchi, si scassa, e questo è il problema delle centrali nucleari. Quindi stiamo parlando non di aria fritta, ma di cose che danno conseguenze molto pesanti. Quindi questa collaborazione è quello che viene denunciato, e quindi da questo è nata questa 3 giorni di iniziative. Il primo giorno era oggi, in cui si sta svolgendo un dibattito sulla ricerca, la cyber war, tra appunto l'Officina di Fisica, Free Palestine, rompere le righe. E domani ci sarà un aperitivo di finanziamento della campagna, un aperitivo cena con la partecipazione anche dei compagni non muos, con proiezioni contro la guerra. E poi mercoledì è stato chiamato un appello, è stato chiamato un appuntamento alle 8 di mattina al piazzale della Minerva alla Sapienza, contro la conferenza che va a celebrare questa collaborazione tra la Sapienza, Finmeccanica, Vitrocisiet, che sono i grandi produttori di armi italiani, ma anche ELT, che è appunto un'azienda che sviluppa i software degli aerei militari Tornado ed altri aerei. E quindi ci sono questa serie di conferenze, questa si tratterebbe della quarta conferenza. Comunque, qualunque informazione vogliate a proposito di questo percorso, sta tutto sul blog, il blog officinafisica.noblogs.org, per notizie ed aggiornamenti. E quindi, insomma, ricordiamo l'appuntamento di domani, mercoledì 19 giugno, dalle 8 di mattina, presidio al piazzale della Minerva contro le conferenze di guerra e gli interessi delle grandi aziende. Non è domani, è mercoledì. Mercoledì, dentro le università. Chiudiamo la parte degli appuntamenti ricordando l'appuntamento che abbiamo già dato la settimana scorsa di una festa Terra Madre che si tiene al 30° chilometro della Via Aurelia, organizzata dal Comitato Rifiuti Zero Fiumicino, per insomma un momento di socialità e ludico, e per insomma continuare a fare controinformazione rispetto ai progetti che vogliono devastare quell'area. Quindi al 30° chilometro della Via Aurelia presso il Granaretto, 2 giorni, 22 e 23 giugno, di iniziative con musica e informazioni per difendere quella fetta di territorio dell'Alto Lazio che è sotto attacco da vari progetti, tra discariche, inceneritori e impianti, mega impianti a biogas. Per oggi è tutto, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, a risentirci alla prossima settimana, e un saluto in particolare a chi è privato della propria libertà.